La mostra, che ha titolo Terra dell'Occupazione, racconta, o perlomeno mostra più che raccontare, perché c'è poco racconto, 44 terre, da lì il titolo Terra dell'Occupazione, da cui nel 48 i palestinesi si sono spostati durante l'invasione, l'occupazione coloniale israeliana, anzi, per più corretto dire sionista, perché Israele non c'era ancora, e sono confluiti, nella speranza comunque di tornare a casa dopo pochi giorni, in una terra dove poi è stato fondato uno dei tanti campi profughi, in questo caso, nel mio caso, quello di Beish Camp, quindi in Cisgiordania, vicino a Beit Saur, Betlemme. Sono 44 piccolissime immagini di terra, quindi c'è pochissimo da vedere, è un lavoro molto, direi, silenzioso. Il tentativo era un po' quello di tanto creare una vista, lavorare quindi anche sulla vertiginosità della lista di questi semplicissimi documenti, nello stesso tempo non vedendo il racconto, no, di cosa sono diventati questi villaggi occupati dal 48 dagli israeliani, in qualche modo cerca anche di negare l'occupazione. Quindi documento, lista, silenzio, grado zero di racconto visivo e negazione della storia. La mostra è fatta di queste 44 immagini, molto piccole, molto silenziose, un'immagine del campo stesso, un notturno, e poi ci sono due immagini più narrative, di racconto, anche diciamo più eloquenti, che sono immagini che invece riguardano tutta un'altra storia, dove io ho creato un collegamento, sono immagini fatte studio, quindi fictionali, diciamo riguardano un'operazione che fece Churchill nei confronti dei propri cittadini dal 39 al 45, in collaborazione con un ingegnere che si chiama Anderson, progettando e offrendo alla sua popolazione milioni di kit che venivano recapitati nelle case, montate gratuitamente, di, diciamo, rifugi antibombardamento. Quindi le immagini sono documentazione della ricostruzione che io ho fatto, in una scala molto ridotta, però seguendo in maniera minuziosa le istruzioni di questi rifugi, molto artigianali, ma industrializzati da certi, per i propri cittadini. E quindi immagine anche di una cura, di un'attenzione che è stata rivolta nei confronti gruppo sociale, cosa che noi in Europa non siamo riusciti lontanamente a fare nei confronti di un altro popolo, nonostante la certezza di dove sta il bene e il male. Mentre nell'altra parte della mostra sono solo prove, sono solo documenti, informazioni, e voleva essere così, no? Quella parte, perché poi vediamo tante immagini, una Palestina che volevo veramente sottrarre, in quella piccola parte, che sono due immagini molto più grandi, ho voluto dire una cosa, una parte diciamo più dichiarativa, dove si crea un collegamento tra due atteggiamenti differenti di protezione. È una mostra molto piccola, ma diciamo, una mostra abbastanza del cuore, ecco. Il lavoro nasce nel 2018 in collaborazione con una fondazione che si chiama TAR, che poi ha avuto un iter, diciamo, sia editoriale che espositivo, partendo da un campo profughi che è per l'appunto Daesh Camp. L'anno dopo, grazie a una ricerca, abbiamo individuato, insieme a Dar, questi 44 villaggi da cui le persone provenivano e sono confluite in questo luogo, fondando, non è una parola molto esatta, costruendo coercitivamente questo campo profughi che poi è rimasto il nostro giorno d'oggi. Consideriamo che in ogni casa dei profughi di Shkemp, entrando, trovi una cornice con la chiave della casa che hanno abbandonato, credendo di abbandonarla per pochissimi giorni, invece abbandonandola per sempre. Lo status di rifugiato si basa proprio su questo, il diritto alla sopravvivenza, ma allo stesso tempo anche il diritto al ritorno. Spostandosi dal campo profughi, un palestinese, o comunque un rifugiato in generale, perde lo status, no? Quindi, diciamo, le generazioni rimangono in questo luogo, appositamente per non perdere lo status e quindi il diritto al ritorno. Mi sono occupato della traduzione visiva di questa ricerca molto grande che ha visto, diciamo, come provocazione artistica, il consegnare un dossier all'UNESCO considerando questo campo proprio come patrimonio dell'umanità e quindi in qualche modo cercando di assottigliare la separazione tra arte e realtà. Una provocazione che voleva rendere patrimonio dell'umanità il diritto alla sopravvivenza, ma anche il diritto al ritorno, quindi il patrimonio dell'umanità, lo status di imputato.